è stato liberato dopo una trattativa nella metà mattinata. Ci sono stati dei tempi collegati allo stato emotivo della ragione Spinelli e della sua famiglia, e poi ci sono stati immediatamente dei contatti telefonici che si sono poi cristallizzati in un atto formale il giorno successivo, ma le indagini sono partite sostanzialmente subito.